Mi senti? Sì, mi sento e sono in mezzo al corteo, quindi potrebbe esserci un po' di confusione. Stiamo transitando accanto a Ponte Vecchio, stiamo rimboccando il Lungarno Serri Stori. Abbiamo appena fatto una breve tappa davanti al consolato russo, dove ci sono stati slogan, dove c'è stato abbandonato il carro armato blu costruito dagli studenti di architettura, e adesso il corteo è ripartito e si sta avviando verso la Biblioteca Nazionale, il consolato tedesco che non può essere esentato da questa giornata, visto il coinvolgimento nella vendita di armi allo Stato turco. E il corteo è nutrito, tante persone, tanti rappresentanti. Abbiamo visto di noi gli studenti dei collettivi medi, ma appunto, come detto, vi è una buona partecipazione dalla rete del Kurdistan, le realtà sociali fiorentine, dal CPA, da Facento, da Campi. Appunto, avete sentito compagni che arrivano dall'Umbria con la loro sociopolitica avventura. E questo, sì, bene, no, è una sicuramente una buona risposta all'appello. E se siete d'accordo, io vi passerei una compagna che viene da Pisa. Sì, me la passo subito. Certo. Sì, dai. Va bene. Sì. Pronto? Pronto, ciao, scusami, ti ho rattaccato senza volerlo. Dimmi. No, dimmi pure, ti avevo riattaccato per sbaglio. Ok, fatemi cosa vuoi sapere, fammi una domanda. Io sono in corteo, vengo da Pisa, cosa... Parlo libera o mi fai domande? Sì, no, volevo sapere più che altro, sì, come ti sembra la situazione, cosa sta succedendo a Pisa anche nei movimenti in solidarietà con la situazione nel Rojava in Siria, cioè giusto per cogliere l'occasione di questo corteo per sapere un pochino cosa si muove nel resto della Toscana, ecco. Allora, senti, a Pisa ora siamo qualche decina, in realtà non moltissimi siamo venuti oggi qui, e il corteo è molto bello, direi, partecipato, vivo, con una grandissima presenza pisa, ma anche una grande presenza italiana che mi sembra un segno positivo di attenzione al tema. A Pisa abbiamo fatto una serie di azioni in questo periodo in solidarietà con Afrin e con la resistenza in Rojava. Abbiamo fatto un'azione alla Torre di Pisa, siamo saliti, abbiamo trovato uno striscione che recitava Turchia Vergogna, facendo un presidio comunicativo sotto la torre. Abbiamo poi fatto la settimana scorsa un corteo in città che ha alzato la bandiera delle TG sul ponte di mezzo, che è il ponte centrale dove il comune di Pisa fa gli alzabandiera ufficiali. È un corteo che ha attraversato le strade cittadine. Poi c'è tutta una serie di iniziative invece di informazioni, c'è stata la presentazione del libro di Davide Grasso e Valen, e venerdì prossimo al Cinema Arsenale faremo una proiezione di 14 luglio, un film sulla resistenza nelle carceri turche di Sakine e dei suoi compagni, e useremo anche questa occasione in realtà per fare appunto una accendere i fari, le luci su quello che sta avvenendo in Rojava. Questa più o meno la situazione, c'è stato un po' appunto di mobilitazione sia sul fronte universitario con la presentazione del libro di Davide, sia invece in città in generale comunicativa nei confronti della città per suscitare attenzione e interesse. Certo, e immagino, cioè, a mio ricordo, la comunità curda nella provincia di Pisa è molto forte, molto numerosa anche, quindi immagino che con questa occasione, negli ultimi mesi, i rapporti si siano ulteriormente consolidati, credo perlomeno. Che racconti vi fanno? Cioè, che impressioni avete da loro, dalla loro bocca? Ma ovviamente i rapporti con la comunità curda, che non è più così numerosa in realtà in provincia di Pisa, era più numerosa qualche anno fa. La solidarietà attiva è molto rafforzata in questo periodo, nel senso da un semplice meccanismo di solidarietà esterna tra diversi che si somigliano è diventata. Amicizia politica è diventata ha fatto un salto qualitativo nel dibattito. Devo dirti che in realtà non è più così numerosa la comunità, però le cose che stiamo facendo le facciamo insieme. Per esempio, la proiezione di venerdì prossimo organizzata da noi, io sono della Mala Cervana in Gin, che è uno spazio di donne, ma che appunto è stato dedicato alle IPG. Con i compagni del Negros, ma anche con Wiki e con la comunità curda della Toscana, che ha questo suo radicamento anche in provincia di Pisa. Certo. C'è uno scambio fitto con loro, ma anche con i nostri compagni che sono andati, sono tornati o sono tuttora in Rojava, per cui sì, i racconti sono racconti di resistenza, sono anche racconti di violenza, di sofferenza per un popolo, però questo penso che sia Certo. abbastanza logico da pensare. Ovviamente, ovviamente. Va bene, ti ringrazio Quello molto. che credo che stia funzionando per noi a Pisa, ma mi sembra di vederlo anche in questa piazza, che credo sia la cosa importante, è che non si tratta di qualche italiano che in maniera un po' pelosa, un po' esterna, va a dare solidarietà a un mito rivoluzionario da un'altra parte del mondo. Quello che stiamo costruendo con compagni curdi, ti dico, ma non a Pisa, qui ora, è la consapevolezza che stiamo combattendo una battaglia che è la battaglia di tutte e di tutti per la libertà e la democrazia, che non è un meccanismo di solidarietà, è un meccanismo di compartecipazione ad una lotta che ci vede in posti diversi, ma combattere esattamente la stessa battaglia. Certamente. Ti ringrazio. Allora, Va bene, ci ok, sentiamo presto. ciao. Ciao. Bene, allora vi lascerei in compagnia di un altro po' di musica e poi ci risentiamo tra poco.